26 maggio, seconda parte. Allora, per riassumere e per concludere il parallelo tra soggetto umanista liberale e postumano variante Wiener, variante cibernetica. Possiamo quindi riassumere così: sia le teorie diciamo liberal borghesi sulla soggettività umana, quanto il punto di vista di Wiener operano, cioè si basano su una operazione molto simile, se non addirittura identica, e che si può dire molto brutalmente è la cancellazione del corpo, cioè lo sganciamento delle funzioni mentali e dei processi di autorappresentazione dalla realtà corporea. Tanto il soggetto liberale quanto il soggetto cibernetico nel senso di Wiener possono possedere un corpo, ma non sono un corpo. Sono qualche cosa di concettualmente e, diciamo pure il parolone, ontologicamente separato dal corpo. Possiedono, utilizzano, sfruttano il corpo, ma non sono un corpo. Attenzione a non considerare questo come una caratteristica generale del postumano, perché invece il postumano di Haraway, il postumano di Marchesini, il postumano dei neo-darwiniani, il postumano di Caronia, invece sono postumani che recuperano il corpo, anzi fanno del corpo il punto di partenza e l'unico dato ontologico reale sul quale possa essere sviluppata sia una descrizione dei processi mentali di tipo tradizionale umano e di tipo non tradizionale, innovativo, postumano, naturalmente per poter costruire, per poter realizzare una operazione del genere, cioè per poter realmente riportare il corpo all'interno dei processi di soggettivazione, cioè di creazione di soggettività, evidentemente c'è una operazione preliminare da fare, che è esattamente quella di decostruire il soggetto borghese. Il soggetto borghese va, il soggetto liberale, il soggetto umanista tradizionale va decostruito, si può decostruire, credo, utilizzando sia Nietzsche sia Marx. Volendo anche Freud, io non ho una grande simpatia per la decostruzione freudiana, perché trovo che corra il rischio in realtà di reintrodurre un'idea della soggettività come sganciata dai processi materiali, ma soprattutto quello che non accetto di nessuna scuola psicanalitica è, come avrete capito da tutta la prima parte del corso, il loro approccio di tipo universalistico, cioè l'idea di poter descrivere delle effettive strutture mentali valide per l'uomo in quanto tale, in tutte le epoche, sotto tutte le latitudini, cosa che credo di avervi spiegato a sufficienza nei primi mesi di questo corso, che non ritengo possibile. Comunque, ognuno sarà come gli pare a lui questa decostruzione, ma una decostruzione della soggettività umanistica liberale ci vuole, perché se non decostruiamo questa soggettività non siamo in grado di costruirne un'altra, come dice Donna Haraway, infedele e basata sul corpo. Per nostra fortuna, però, già un'operazione di questo tipo è stata avviata, è stata, oltre che da Nietzsche e da Marx, ma in tempi molto precedenti, in tempi più vicini a noi, esattamente dalla stessa cibernetica. Ecco perché adesso chiudiamo un po' questa storia della cibernetica. Anche le fasi successive degli studi cibernetici, a partire dai primi anni 60, si sono dimostrate capaci, già all'interno di quel paradigma, di correggere l'originaria impostazione wieneriana, no? Sia dal punto di vista degli strumenti concettuali precisi, per esempio superando il concetto di omeostasi o integrandolo dentro una serie di considerazioni più ampie, e sia dal punto di vista dell'ipotesi tipica dell'umanesimo, della concezione del soggetto umanista tradizionale, che vedeva il soggetto relativamente, anzi sostanzialmente separato dai processi in cui era implicato e a cui dava luogo. Nella cibernetica della prima fase questa separazione è quella che si può vedere dall'ipotesi black box. Se io dico non mi interessa nulla di quello che accade all'interno del black box, è perché suppongo di avere un punto di vista esterno dal quale guardo le cose e dico: ah, per me è una scatola nera. È una scatola nera se io la guardo da fuori. Se sono dentro, se cerco di descrivere quello che accade qua dentro, se il soggetto lo metto qua dentro, non posso dire che è una black box. È soltanto se suppongo che il soggetto stia fuori che posso dire: quella è una scatola nera, non mi interessa cosa cazzo succede. Ma se invece dico: no, eccomi qua, sono qua dentro, sono io, siamo noi, gli input e gli output ci attraversano, allora dobbiamo ben dire che è chiaro che l'ipotesi del black box non funziona per niente. Ed è esattamente quello che fecero una serie di personaggi dopo la morte di Wiener. Alcuni di essi avevano già partecipato alla prima fase delle conferenze di Nancy, ma entrano in gioco, entrano in ballo, io avevo pensato di chiedere del gesto ma mi sono dimenticato. Fate una cortesia, fate una cosa rapida, che sennò veramente mi scrivo. Io con l'unghia sulla lavagna, quindi. Mandano loro e almeno che ci siano quando servono. Allora, seconda fase, 1960-1980 circa. Gli studi che avvengono in questa fase della, gli studi di esperienza che avvengono in questa fase, basta che facciamo un elenco dei nomi dei protagonisti di questa cosa e capiamo già soltanto da quelli, dal loro campo disciplinare, che cosa è cambiato. Al posto di fisici, neurofisiologi e matematici, troviamo antropologi, psicologi e biologi. Questa è la grande... I nomi sono, insomma, sono niente male. C'è una signora che si chiamava Margaret Mead, c'è suo marito che si chiamava Gregory Bateson, e ci sono, c'è un altro signore che si chiamava Heinz von Foster. Questi qua, ahimè, ci hanno tutti lasciato, e invece ci sono due persone che sono ancora vive, che all'epoca lavoravano insieme, adesso non lavorano più insieme, ma che hanno rivoluzionato la biologia teorica negli anni 70, e che si chiamano Umberto Maturana e Francisco Larela. Latinoamericani entrambi, ma operavano già allora nel Nord America. Allora, Margaret Mead era un'antropologa, tutti sapete, autrice di sesso, per esempio, di sesso e temperamento sessuale tra le società primitive, una delle studiose più importanti delle culture polinesiane dopo la prima ondata, cioè dopo i lavori pionieristici dei primi del secolo di mi scappa il nome, quello degli Argonauti del Pacifico, accidenti. Va bene, uscirà fuori. Gregory Bateson, che è suo marito, in realtà che è ancora più complesso di lei, perché Gregory Bateson ha fatto nella sua vita, ha fatto l'antropologo, lo psicanalista ed è coinvolto insieme col terzo nome, Einstein Köster, nella creazione di una nuova branca della scienza che si chiama teoria dei sistemi. Quindi qua ci mettiamo teoria dei sistemi, tenendo conto però che la teoria dei sistemi, come è stata teorizzata e sistemata, cioè come è stata quasi creata da von Foerster, è praticamente l'antenata delle attuali teorie della complessità, delle teorie del caos cosiddette, che hanno diramazioni praticamente in tutte le scienze possibili, dalla fisica alla sociologia, insomma. Margaret Mead la definiamo antropologa, tanto per capirci, Gregory Bateson lo definiamo psicanalista, ma quindi antropologia, psicanalisi, teoria di sistemi, però insomma Bateson è molto di più. Se vi capiterassi, avrete voglia di leggervi una cosa insieme istruttiva e divertente, potrete affrontare per esempio Mente e Natura di Bateson, che è la sua raccolta di scritti più importante, e il libro di Douglas Hofstetter, Gedelasker-Bach, uscito molti anni più tardi, uscito alla metà degli anni 80, credo, ha una serie di riferimenti affettuosi, ma anche insomma fondati a Bateson stesso. Umberto Maturana e Francisco Varela invece hanno una formazione classica da biologi, è questo cocktail di punti di vista e di scienze diverse che è la seconda ondata della cibernetica. Capite bene che con una serie di competenze di questo tipo, quella che viene cancellata è proprio l'ipotesi della scatola nera. Non c'è più la considerazione, tra virgolette, oggettiva di un ciclo informativo che attraversa un qualche cosa dai contorni misteriosi. C'è lo stare dentro. C'è l'idea che quello che è importante non è più soltanto valutare gli effetti in termini di rapporti, correlazioni tra entrata e uscita, come l'uscita corregge l'entrata, eccetera, eccetera. L'omeostasi, il feedback non bastano più per spiegare. C'è qualcosa che succede qua dentro, c'è qualcosa che succede nel processo di formazione del soggetto. Questo qualche cosa che cosa è? È esattamente la presa d'atto del carattere linguistico del soggetto, cioè il fatto che il soggetto è qualcosa o qualcuno che è capace di parlare di se stesso o addirittura di parlare dello strumento con cui parla, del linguaggio, di parlare del linguaggio, di parlare di quello che gli capita, di descrivere la sua stessa descrizione, di parlare del modo in cui egli si, diciamo, descrive. Ora, tutto questo, in ultima analisi, ha un nome. È la facoltà umana di produrre riflessioni, riflettere su se stesso. Quindi non è più l'omeostasi, che è il concetto fondamentale della cibernetica. L'omeostasi della cibernetica con questi signori diventa la riflessività. Riflessività, voi capite che è una facoltà legata con il linguaggio. Non ci può essere, non si può riflettere su nulla se non si possiede una struttura simbolica di rappresentazione e che sia insieme di autorappresentazione. L'era del feedback, l'era dell'omeostasi, l'ipotesi della scatola nera sono stati utili, ma non sono stati utili semplicemente per, come piccolo meccanismo di innesco, per far partire una serie di ricerche nuove, totalmente nuove. La prima modalità con la quale questa tematica della riflessività viene fuori è questa. Nella cibernetica della prima ora i processi cognitivi apparivano come qualcosa di oggettivo. Non si sapeva o non erano scarsamente interessati i primi cibernetici a descrivere davvero come avvenivano i processi cognitivi, cosa avveniva quando c'era un processo di conoscenza. Al massimo si tentava di descrivere, come vedete Metallo in quell'articolo, come dire, memorabile, alcuni aspetti, per esempio quelli biologici, neuronali. Il cervello della rana funziona così, sta tra i neuroni, eccetera, ma non era, anche parlando solo della rana, non era un tentativo di descrivere globalmente il sistema rana. Si descrivevano alcune componenti di questo, diciamo, sistema. E si faceva finta che nel funzionamento di questi sottosistemi, gli altri sottosistemi del sistema Rana non entrassero. Ma se io voglio costruire davvero una teoria dei sistemi, non posso, se voglio fare davvero una teoria sistemica, non posso concepire un sistema come composto di diversi sottosistemi che non interagiscono tra loro. Il sistema funzionerà e ci sarà un certo comportamento delle frecce che entrano e di quelle che escono, perché ci sono delle frecce interne, perché i vari sottosistemi reagiranno tra loro. Se io non studio come reagiscono all'interno del sistema questi sottosistemi, non posso dare una descrizione veramente utile del sistema in, diciamo, generale. Quindi, qual è il, come dire, problema? È che finché il sistema si chiama rana, io non sono una rana, guardo la rana dall'esterno e dico la rana funziona così, così e così. Ma quando io voglio descrivere la mente umana o il cervello umano, uso il mio cervello per descrivere un altro cervello, per descrivere un modello di cervelli, per descrivere un prototipo di cervelli. Quando io voglio descrivere il sistema società, descrivo qualcosa di cui io posso fare. Mica sono un eremita che sta sul monte Ibrist, mica sono un guru che sta lontano dal Mogwarja, no, sono un membro della società. La mia vita si svolge all'interno della società, le mie azioni generano altre azioni che possono essere definite reazioni alle mie azioni, e questo influenza il modo in cui descrivo la società, non ci sono crisi. Non sono un essere estraneo alle cose di cui parlo, parlo delle cose dentro a cui sto, dentro a cui sono. Quindi se la mia parola d'ordine metodologica è riflessività, vuol dire che dentro al sistema, ai sistemi cognitivi, se voglio descrivere come avvengono, come avviene concretamente il processo della conoscenza, ci sarà un ruolo dell'osservatore. Non posso considerare colui che osserva, colui che descrive un sistema cognitivo, un osservatore neutrale. E a sua volta è un sistema cognitivo, lui fa parte del sistema. Se cerco di descrivere il sistema cognitivo come un sistema sociale, come il fatto che l'associazione di diverse persone in un gruppo si basi su certi presupposti conoscitivi, generi ulteriori processi conoscitivi, ulteriori strumenti di conoscenza, in tutto questo colui che fa questo studio è parte, quindi l'osservatore ha un ruolo. Questa cosa era chiara, questo è un portato della riflessione sulla antropologia. L'antropologo sa bene, è una delle sue cose che impara, che la sua presenza all'interno del gruppo dei cosiddetti selvaggi, dei cosiddetti primitivi, altera il loro comportamento. Nel momento in cui io osservo un gruppo, non posso osservarlo da lontano con il cannocchiale e loro non sanno che io sono lì. Se voglio capire qualcosa devo vivere con loro, ma vivendo con loro io non sono nato con loro, non sono cresciuto con loro, sono uno straniero, sono all'ovvio a loro. E quindi loro, in qualche maniera, per quanto io gli dica fate come se non ci fossi, è esattamente come si dice quando si dice qualcuno, fate come se io non ci fossi, ma in realtà nessuno può fare come se gli altri non ci fossero. Si fa sempre come se gli altri ci sono, ma se gli altri ci sono perché siamo cresciuti insieme da bambini, sappiamo, se c'è la tradizione sociale, il linguaggio, la lingua, le abitudini, eccetera, eccetera, che ci uniscono, e già voi sapete come è complicato e difficile, per esempio in età adulta, cambiare città, anche solo in una stessa comunità linguistica, cambiare solo città, eppure non siamo all'estero, no? Passare da Milano a Roma, insomma, ci sono comportamenti diversi, ci sono modi di vita un pochino, diciamo, come dire, differenti, figuriamoci quando dall'Europa ci trasferiamo nelle isole Figi o nelle isole Samoa o tra i cosi del Mato Grosso, e ovviamente sia Maria Smith che Carri Bezzi non sono andati più o meno in uno dei due vari di questi posti. Allora, c'è un ruolo dell'osservatore, l'osservatore altera, quindi c'è un ruolo, c'è una auto, come dire, no? C'è un'auto-influenza, cioè un'influenza interna. Allora, capite che questo vuol dire uccidere la scatola nera, no? Vuol dire stare dentro la scatola nera, parlare della scatola nera, descrivere cosa succede dentro la scatola nera, ma non pensare che questa descrizione possa avere un carattere di neutralità e di obiettività e di imparzialità. Non ci sarà nulla mai che abbia un carattere di imparzialità, oggettività, neutralità. Diciamo che più o meno nello stesso periodo, negli stessi anni in cui queste persone lavoravano negli Stati Uniti, c'era in Europa alcuni personaggi, il più importante dei quali è Michel Foucault, che più o meno operava con gli stessi principi, cioè che cercava di chiarire dall'interno, non cercava le strutture universali, eterne, immutabili della psiche umana, il complesso di Edipo o l'anima immortale, ma cercava di vedere come si erano costruite le mentalità, i modi di pensare, le epistemi, i sistemi legati a particolari epoche storiche, come si erano costruiti, come l'idea di sovranità si era trasformata nell'idea di governo, come le scienze della terra si erano trasformate nella geologia, come la grammatica generale si era trasformata nella filologia classica, insomma, sono i grandi temi di uno dei primi libri di Foucault, abbiamo detto, Le parole e le cose, no? Sono questi tre, economia, scienze naturali, dalla produzione della ricchezza alla economia, genesi delle scienze naturali, genesi dell'economia, genesi della linguistica moderna, insomma. E queste tre cose, Gesù consiste nella parola e le cose, creano l'uomo, creano quello che è l'uomo, che oggi è proprio non ci sono. Quell'uomo che Foucault ha descritto così bene. Però anche qui Foucault era uno che ovviamente teneva conto di questa internità, di questo essere interno dell'osservatore ai processi osservati. E negli stessi anni, mi piace ripeterlo, stava maturando il movimento forse più importante degli anni 70, perlomeno dal punto di vista di alcuni effetti sociali che ha avuto, cioè il movimento femminista, il quale diceva esattamente le stesse cose, cioè combattendo contro l'assolutismo e l'universalismo maschile, che identificava la struttura caratteriale e il modello mentale del maschio, lo identificava con quello del genere umano, e le donne dicevano, come dire, con una certa giustificazione, essendo la metà del genere umano, per non dire la sua parte biologicamente più strategica, dice: guarda che non è così, guarda che tu non puoi, tu maschio umano, non puoi prendere la tua struttura mentale, il tuo modo di pensare, le tue abitudini, le tue determinanti sociali e dirmi che questa è l'umanità. L'umanità è un'altra cosa, l'umanità è composta, l'umanità è quello che all'interno del mondo e del modo di pensare femminista si sarebbe chiamato qualche anno più tardi, quello che Donna Haraway chiamò situated knowledge, la conoscenza situata. Non si parla mai, non esiste mai un luogo astratto etereo da cui parlare. Io non ti parlo dalle regioni dell'universale, non vi dico, non vi racconto verità eterne e immutabili alle quali voi potete o non potete aderire. Cerco, nel mio piccolo, di fare quello che ha fatto Foucault, con i miei strumenti intellettuali, naturalmente, quindi molto meno, però cerco di descrivere dei processi, di spiegare come da una cosa se ne crea un'altra, e soprattutto di cercare di costruire gli strumenti con i quali, se non ci va bene una certa cosa, cerchiamo di costruire un'altra, perché poi se non facessimo questo, cioè ci fregherebbe in fondo un grande sviluppo umanista del mondo, del mondo che è a culo, sappiamo. Ma tutto questo si fa, e tutto questo Foucault lo faceva facendo, cioè lavorando per cambiare insieme con tutto. Lui ha avuto la fortuna di vivere in un periodo in cui queste trasformazioni sociali c'erano ed erano abbastanza. Ma insomma, da un punto di vista culturale capite quindi che la questione della riflessività, quindi riflessività, ruolo dell'osservatore nei sistemi cognitivi e nei processi sociali, questo è quello che viene dall'antropologia. Dal punto di vista della teoria dei sistemi, un sistema è un complesso di processi che avvengono non l'uno accanto all'altro, ma l'uno intrecciato con l'altro. E se io riesco, perlomeno provvisoriamente e parzialmente, a mettermi per un istante, un attimo, o a fare finta di stare fuori e di guardare questo sistema come un tutto, scopro una cosa interessante. Che questo tutto, quando vado a descriverlo, non è la stessa cosa che avrei diciamo ottenuto descrivendolo pezzo a pezzo. Se un sistema è fatto di A, B, C e D, il sistema globale non sarà A più B più C più D. Sarà qualcosa di più, sarà qualcosa di diverso. Il tutto è maggiore della somma delle parti. Questo è l'assioma fondamentale della cosa? Non è impertinente. La Gestalt è più antica di la Gestalt nata tra gli anni 30 e 40, è una teoria della percezione, che è molto più limitata. È una teoria della percezione. In italiano Gestalt vuol dire forma, uno dei vari modi che hanno di dire forma o configurazione, e la psicologia della Gestalt è una ipotesi psicologica che cerca di spiegare i processi percettivi sulla base di processi globali invece che poi sezionati. Sì, per certi versi può essere, però diciamo questo, diciamo la nascente teoria dei sistemi, che nasce più o meno verso la metà degli anni 60, Hans von Foster è il personaggio. Sai che l'ho scritto male? Vedi che proprio da sempre guardare con un po' di distanza per riuscire a vedere, perché non c'ha la V, poi è una F. Colpa dei tedeschi che dicono, vedete che in tedesco la F si può scrivere sia con la F nostra che con la B, e si lascia sempre F. Allora, ogni tanto mi rimane, mi trovo non lo so sbagliare, lui fa la F, dai, un po'. Quindi la teoria degli insiemi è un tentativo di costruire una teoria che c'è un po' di, c'è una tentazione universalista qua, certo che c'è, è ovvio che c'è, tentare di costruire un modello generale che vada bene per i sistemi biologici, per quelli sociali, per qualsiasi ambiente nel quale ci siano delle cose in relazione tra loro, insomma, no? Una super teoria, in realtà può essere discutibile, però dal punto di vista, la cosa importante è che anche questa teoria tiene conto dell'assioma fondamentale, cioè non tenta di dare una descrizione totalmente neutra e totalmente oggettiva di un sistema. Anche un sistema è qualcosa che deve essere descritto guardandolo dall'interno e in cui l'osservatore avrà comunque un ruolo, pure lui, all'interno, all'interno di questo, diciamo, sistema. In tutto questo, come poteva, giocare, diciamo, il settore, il campo di ricerca della biologia? Obiettivamente non secondo un modello e secondo un punto di vista, diciamo così, riduzionista. Il tipo di studi biologici che potevano essere interessanti per la costruzione di una teoria cibernetica non potevano essere principalmente, prioritariamente, per esempio, quelli che pure in quegli anni avvenivano della nascita della biologia molecolare, quindi dello studio, o della biochimica, dello studio di come certe particolari sostanze chimiche influivano in termini biologici, o per esempio nello sviluppo nascente della genetica. Sappiamo che nel 54 Watson e Crick scoprono per la prima volta la struttura a doppia elica del DNA. Questo punto di vista era un punto di vista ancora troppo riduzionista, ancora troppo scientista, da un lato, e troppo limitato dall'altro. Cioè, mi diceva a pezzettini che cosa... Il tipo di studi biologici che erano più interessanti per questo genere di cose era il punto di vista che spiegasse, che tentasse di spiegare che cosa caratterizzava in generale i sistemi viventi, perché c'era l'enigma, da un certo punto di vista, di una particolare forma di organizzazione della materia, quella biologica, che invece di obbedire alla generale legge di crescita dell'entropia di ogni sistema fisico, metteva in atto processi antientropici. La vita è un processo antientropico. La vita non dissipa energia. La vita riesce a costruire dei processi motori all'interno dei quali c'è creazione di energia e non distruzione e non dissipazione. Dal punto di vista scientifico, questo è una cosa, come mai? C'è la seconda legge della termodinamica. In ogni scambio di energia tra forme diverse, per esempio calore che diventa forma meccanica, non c'è mai una trasformazione integrale della quantità di energia d'arrivo in una uguale quantità di partenza. Nel processo c'è un pezzo, un delta E, che si perde. L'energia che ricavo non è mai uguale a quella che ci ho messo dentro, ne ho persa qualcuna. Questa energia la ritrovo dispersa in tutto il sistema sotto forma di calore, è l'attrito, di quale si fa fregare una superficie su di un'altra, sono le perdite di calore di quando sta dare dell'acqua, cioè non c'è questo, secondo il principio della termodinamica. Ma i sistemi biologici vanno contro questo principio qua. Generalmente nell'universo no, perché poi muoiono e quindi morendo in qualche modo, ma nel ciclo di vita di un organismo biologico è un organismo che trasforma energia è un saldo positivo, non un saldo negativo. Accidenti. E che è? Come? Perché? Come è possibile? Che ci sia qualche cosa di questo. Bisogna descrivere. Certo che sono sistemi, certo che varrà anche per questo, ma sono sistemi in cui va. Bisogna vedere che cosa. Maturana e Varela, che sono due giovani all'epoca sono veramente giovani, biologi, hanno poco più della mia età, forse sì, credo che Maturana abbia, forse già. Varela ha 2-3 più di me, Maturana una decina. Maturana e Varela, che sono due giovani biologi, sono insoddisfatti delle descrizioni, anche se erano partite dei libri importantissimi, era già uscito il libro di François Jacob, La Rosa dell'Ordine degli Eventi, era uscito Giacomo No, Carlo Necessità, c'erano una serie di classici che già avevano, già si dimostravano, cioè i grandi biologi teorici già si dimostravano insofferenti di un punto di vista troppo riduzionista. Ma quello che Maturana, i due giovanotti, Maturana e Varela, mi sembra che Maturana sia colombiano di nascita e Varela argentino, ma sull'argentinità di Varela non ho dubbi, sulla colombianità di Maturana ho dubbi, ma se andate su Wikipedia trovate bene. Comunque poi si sono messi insieme, hanno fatto per un lungo periodo i primi 5-6 libri l'hanno scritto insieme, la loro ricerca insieme. Di che cosa erano insoddisfatti? Erano insoddisfatti del carattere meccanicistico della descrizione dei sistemi biologici di quel periodo, no? Era troppo meccanicistico. D'altra parte non gli andava bene neanche il vitalismo, neanche il punto di vista opposto, cioè chiamare tutto vita, dire la vita è un grande processo, eccetera, eccetera. Il vitalismo, cioè quella corrente di pensiero che assume la vita come una specie di processo originario in qualche modo, corre il rischio volentierissimo, anzi spesso e volentieri sconfina nello spiritualismo, ci vuole poco, la vita diventa praticamente sinonimo di spirito, anima, no, loro sono rigorosamente materialisti, quindi non volevano. Allora, non volevano né uno spiritualismo camuffato, però né un riduzionismo troppo auto, cioè, perché? E capivano bene, arrivarono alla conclusione che la questione era esattamente che bisognava tenere conto del ruolo dell'osservatore, che era impossibile dare una descrizione di un sistema biologico, come funziona un sistema biologico, come è generalmente descrivibile, che cos'è che serve per distinguere la vita dalla non vita, senza tenere conto del principio di riflessività. Quindi primo caposaldo. Secondo caposaldo, che ogni differenza, che a spingere troppo in là, a spingere troppo in profondità la differenza tra vita e non vita, si rischiava ancora una volta di fare una operazione caricaturale, di fare una caricatura, perché certamente è utile tracciare un confine tra vita e non vita per poter descrivere i semi viventi, ma questa linea di confine è sfumata e morbida, non è netta. C'è una continuità tra il non vivente e il vivente. Sempre di materia si tratta, è soltanto materia organizzata in maniera diversa. E anche quel poco che possiamo sapere, quelle ipotesi che possiamo fare sulla il solo fatto che esista un problema di comparsa della vita sulla Terra, che ci sia stato un periodo in cui la vita non c'era, la materia era andata in un certo modo e da un certo punto in poi si sono creati processi per cui la vita poi è apparsa, indica che c'è una transizione, che questa transizione, come ogni processo diciamo naturale, ha caratteri di continuità di per sé e non che quindi è vero che la vita oggi è, possiamo sforzarci di distinguerla dalla non vita, ma non dobbiamo spingere troppo in là questa distinzione sino a trasformarla in una distinzione ontologica. Quindi anche la vita è un processo? non è qualche cosa, ah, c'è la vita e poi c'è la non vita, c'è il processo che ha portato la materia alla presenza in un certo modo. Questo modo di organizzazione lo chiamiamo vita, non è qualcosa di metafisicamente opposto alla non vita. C'è stato un processo storico che ha portato da un modo all'altro di organizzare la materia. L'insieme di queste cose fecero sì che Maturana e Varela, nei loro primi libri, specialmente in quello che da questo punto di vista è più pertinente per noi, che è l'albero della conoscenza, crearono il concetto di autopoiesi. Sinteticamente potremmo dire, per autopoiesi, poiesis è il termine greco che significa creazione, poiesis, poesia, la stessa origine del termine poesia. Poiesis è come la poesia, è una parola greca antica che vuol dire creare qualche cosa. I sistemi viventi, dicono Maturana e Varela, sono sistemi autopoietici, cioè sono la materia è organizzata nei sistemi viventi in modo tale che questi sistemi si autocreano, hanno un principio interno per cui sono in grado di creare organizzazione della materia nuova in modo da potere temporaneamente e localmente invertire il secondo principio della termodinamica. Adesso ci sarebbe moltissimo da dire, però insomma, se vuole chiudere dentro questa lezione non posso raccontarvela tutta. Però vi voglio segnalare questo: una volta che io riesco più o meno a parlare dei sistemi viventi come sistemi autopoietici, a quel punto posso anche recuperare il concetto di informazione biologica senza che questo diventi un feticcio, come rischiava di essere nella prima fase della cibernetica e come rischia di essere oggi con gli studi della ipergenetica. Tutto è genetica, tutta la vita è informazione. Se la vita è un sistema autopoietico, è ovvio che questo qualcosa che io creo in più lo posso anche chiamare informazione, ha uno dei suoi aspetti, può essere, diciamo, l'informazione. E uno dei processi, uno dei dispositivi biologici più importanti sono i dispositivi che servono per generare, negoziare e trasferire l'informazione, certo. Ma senza, ancora una volta, che l'informazione diventi un concetto metafisico, diventi il concetto passepartout come oggi è per gran parte dei, diciamo, genetisti e per l'informazione scientifica. Quando oggi sentiamo dire, no, che con la genetica sconfiggeremo le malattie ad origine genetica. Ora, questa nozione di malattia ad origine genetica è una truffa, non esistono le materie, no, non esiste, non ce n'è neanche una, neanche uno ce n'è di morbo che affligge gli esseri umani o gli esseri viventi, che deriva totalmente da un gene. Non ci sono. Ci sono alcune malattie per le quali esiste una fortissima predisposizione genetica. Questo sì. Ma anche l'Alzheimer, che è una tra le malattie più geneticamente determinate, cioè quella che è più collegata con la... Neanche l'Alzheimer si può dire che integralmente è una malattia genetica. Cioè che uno c'ha un DNA di un genotipo e fatalmente avrà l'Alzheimer per vita. Non si può dire che fatalmente tu avrai una materia, si può soltanto dire a un certo stadio della vita qual è il tuo grado di maggiore o minore predisposizione. Ma, primo. Secondo, quasi mai c'è un gene, una particolare sequenza di DNA che determina una di queste malattie, ma sono più, almeno 2, 3, 4, 5, fino a 12, 15, 20 geni diversi, la cui presenza contemporanea configura la tua prescrizione della terapia, e terza cosa, in ultima analisi, è sempre la tua vita, è sempre la tua storia clinica, clinica, biologica, insomma, la tua storia su questo pianeta e quindi le cose con cui sei molto in contatto, e quindi l'ambiente, e quindi la relazione con, diciamo, l'ambiente. Il problema di tanta parte della diciamo, biologia contemporanea, specie di quella applicata, invece è che fa del carattere genetico un assoluto causale e dell'informazione un concetto metafisico e inverificabile fuori, tutto è informazione, tutto è e sottovalutare, cioè, all'interno di un paradigma autopoietico come quello predisposto invece da Maturana e Varela, Maturana e con Varela, allora invece si può anche usare il termine e il concetto di informazione senza che questo diventi così dannoso, senza che questo generi questa sclerosi intellettuale che questa sclerosi è questo determinismo stupido per cui siccome tutto è che è una come dire, è un abuso del principio di causalità. E devo dire che David Hume e Immanuel Kant sono passati invano, nonostante le critiche acuminate che tutti e due, soprattutto Hume, ha fatto al principio di causalità, noi esseri umani continuiamo allegramente a usare e ad abusare di questo principio, nel senso che siamo così come dire, massicciamente convinti che ogni cosa abbia una causa identificabile, descrivibile, già questa è la causa e quindi tolta quella siamo a posto e ci possiamo. Allora, chiudiamo con questa, vi leggo quest'ultima, con queste ultime considerazioni della Catherine Hess sulla seconda ondata della cibernetica e poi prossimamente che abbiamo chiuso perché basta, e ci divertiamo con la prossima volta di Foucault. Allora, tre punti e una conclusione. Primo, lei che parla, quindi io non c'entro molto. Primo, mentre la cibernetica della prima ondata dava grande importanza a liberare l'informazione dal suo corpo, la teoria dell'autopoiesi accentra l'attenzione sul fatto che l'informazione così definita è una astrazione che non ha basi nei processi corporizzati fisicamente, physically embodied, che costituiscono tutte le entità viventi. Perciò l'autopoiesi devia dalla traiettoria tracciata a proposito dell'informazione dalla prima ondata, autonomia dell'informazione, visione dell'uomo come struttura, come pattern informativo e non come materia che resiste anche all'informazione. E l'autopoiesi asserisce con decisione che l'informazione senza un corpo non esiste. Esiste solo come una inferenza che un osservatore trae dalle sue osservazioni. Ma l'informazione non esiste se non ha un corpo in cui è interrata. Non c'è informazione da sola, non esiste. L'informazione è associata a una struttura corporea, fisica. Posso parlare di informazione come astrazione, come concetto, ma devo essere cosciente che sto parlando di una astrazione. Non la troverò in natura. Ah, qua c'è l'informazione. Quindi anche, attenzione anche a dire il DNA porta delle cose. Il DNA è una struttura informativa, non porta informazione. Lui non porta, è informazione. Trasferisce, fa dei processi biochimici che possono essere descritti dal punto di vista umano linguistico come informazione, trasferimento di informazione. Ma l'informazione non è una sostanza metafisica, perché non esiste senza un corpo con il quale viaggia. Secondo, mentre la cibernetica della prima ondata considerava il cyborg prevalentemente come una amalgama tra l'organico e il meccanico, un corpo umano con dei pezzi di metallo o delle cose messe dentro, la teoria dell'autopoiesi usa la sua definizione allargata della vita per indagare sul fatto, per chiedersi se anche i sistemi sociali possono essere definiti viventi. Forse anche i sistemi sociali, se definisco la vita come un insieme autopoietico, come un insieme che si autocrea, forse anche i sistemi sociali possono essere definiti esseri viventi. Il paradigma del cyborg per l'autopoiesi è lo Stato, non il tipo di uomo meccanizzato immaginato da Wolf, da Bernard Wolf, o da Philip. Quindi, mentre Kathy Hayes legge il modello di Chiano, non è un caso, perché come modello della cibernetica della prima. Mentre il paradigma del cyborg per l'autopoiesi è lo Stato, non lo Stato in senso politico, è lo Stato nel senso di Stato. È una condizione nella quale è la stessa roba che mi sono scritto io, la frase Loving che mi sono scritto sul profilo di Facebook, cioè essere cyborg è la condizione dell'uomo nel XXI secolo, non un accessorio, è uno stato, è una condizione. Terzo, la teoria dell'autopoiesi conserva le caratteristiche di autonomia e di individualità dell'umanesimo liberale, ma vede il pensare come un effetto secondario che si manifesta quando un'entità autopoietica interagisce con le proprie rappresentazioni. Questo è il pensiero. Il pensiero è l'effetto dell'interazione tra una entità autopoietica e le autorappresentazioni che questa si crea. Quindi quando ho, unico caso conosciuto di esseri umani, quando ho una struttura autopoietica che si è data uno strumento di rappresentazione così ricco e così strutturato da poter creare delle auto rappresentazioni di linguaggio, ecco che l'interazione di questo sistema autopoietico con il linguaggio genera pensiero. Con il linguaggio o in teoria con qualunque struttura autorappresentativa sufficientemente ricca. Storicamente noi conosciamo il linguaggio, ma teoricamente non è che dobbiamo limitarci solo al linguaggio. Quando arriveranno da Venus 4, i navi molto probabilmente hanno una struttura di autorappresentazione che in parte prescinde dal linguaggio. Vero no? Perché sanno il cazzo di codina, perché possono connettere fisicamente con altri esseri viventi e sicuramente il rapporto che hanno per esempio con loro con la creatura alata non è di tipo, come dire, verbale, ma anche il rapporto che hanno con l'altro madre, con la cosa, eccetera, probabilmente ci sono delle componenti, è interessante, nel libro questo non l'ha scritto nessuno, manco io, non mi interessa, se avremmo potuto lavorarci, ma vedete come siamo tutti distratti. Allora, la teoria dell'autopoiesi conserva le caratteristiche di autonomia e di individualità dell'umanesimo liberale, ma vede il pensare come un effetto secondario che si manifesta quando un'entità autopoietica interagisce con le proprie rappresentazioni. L'autocoscienza, che è un sottinsieme del pensare, è relegata ad un effetto puramente linguistico. L'autocoscienza è un effetto del linguaggio. Gli assunti di base dell'individualità passano dall'autopossesso alla chiusura organizzata. Quindi, l'individuo non è più qualcosa che possiede se stesso, ma è un sistema relativamente chiuso, che perlomeno in certi momenti può chiudersi e quindi può assicurare questa autoriferibilità. Quindi, gli assunti di base dell'individualità non sono più l'autopossesso, come nella prima fase, ma sono la chiusura organizzata e la riflessività di un sistema che opera ricorsivamente sulle proprie rappresentazioni. Ricorsivamente, cioè, i sistemi autopoietici di Maturana e Varela, alcuni di essi, generano rappresentazioni. A partire dalle rappresentazioni si possono generare rappresentazioni delle rappresentazioni, cioè meta rappresentazioni, e così via. C'è sempre un feedback in qualche modo, ma questa volta il feedback agisce su di un sottosistema che è quello, diciamo, linguistico, e in questo caso fa una operazione di tipo ricorsivo, perché ogni volta che fai una, che rifletti su una rappresentazione, lo rimetti dentro e ne ripari hai una nuova rappresentazione che è l'effetto della riflessione sulla rappresentazione. La riflessione diventa ricorsiva, cioè rientra in circolo, secondo il vecchio modello del feedback, ma questa volta arricchito. In conclusione, il corpo dell'informazione è ancora in discussione e l'impero del cyborg è ancora in espansione. E il soggetto liberale, anche se è più che mai un individuo autonomo, sta letteralmente perdendo la mente come sede dell'identità. Il processo, tutto questo, non abbiamo il tempo di, perché la Hess ne parla sicuramente nel libro, ma accenniamo nel fondo, perché non siamo, abbiamo tirato intorno per tutto l'anno, insomma, in qualche maniera ci dovremmo... Tutto questo ha un effetto. L'effetto è che i processi di formazione e di autoconsapevolezza della identità stanno profondamente cambiando. Se oggi noi diciamo che le nuove tecnologie stanno creando crisi di identità è perché ci stiamo rendendo conto che queste tecnologie, non loro in quanto tali, ma sono l'indice di processi sociali ben più profondi, stanno mettendo in discussione i processi tradizionali sui quali si basava l'identità, che avevano generato l'autorappresentazione culmine della modernità, che è il soggetto, diciamo, umanistico liberale. A livello del postumano, o di quello che Jean Foucault, senza usare questo termine, però aveva, diciamo, aveva descritto, l'illusione mentalistica, diciamo, insomma, la semplificazione cartesiana, che aveva identificato la nostra identità. Chi siamo noi? Che cosa siamo? Siamo esseri pensanti, siamo cose che pensano, no? Res cogita. Siamo cose che pensano. Questo è il baluardo cartesiano identitario. La nostra identità consiste nella mente. Dimmi? Consiste nella mente, questa era. Paradossalmente l'allargamento dei processi mentali e di pensiero, la migrazione di pezzi della nostra mente fuori di noi, la loro incarnazione in macchine, ha fatto sì che fosse sempre più difficile mantenere la vecchia definizione cartesiana. Se noi siamo cose che pensano, ci sono dei pezzi di noi anche fuori di noi ormai. Ci sono dei pezzi di noi nei computer, ci sono dei pezzi di noi nei processi sociali, ci sono dei pezzi di noi ovunque. Il pensiero perché? Perché contestualmente abbiamo capito o stiamo in via di comprendere che il pensiero non è neanche quel processo lineare di creazione di una rappresentazione partendo da dei dati vecchi che filosofi e psicologi hanno supposto per quanto riguarda la storia della psicologia. Anche il nostro pensiero è un sistema autopoietico e quindi è un sistema nel quale devo prevedere un ruolo interno di complicazione, di arricchimento anche del, come dire, soggetto pensante. Per il solo fatto di essere un soggetto pensante che pensando se stesso modifica se stesso e che pensando se stesso si rende conto che non c'è un confine, che è del tutto illusorio confinare e arginare i processi del pensiero dentro una mente, individuale. Non è la mente individuale che pensa, sono le relazioni tra una mente e l'altra, sono le relazioni tra i corpi che generano pensiero e che generano di volta in volta emergenze di pensiero che certo poi vengono parzialmente e temporaneamente sintetizzate dagli individui. Esistono gli scrittori, gli inventori, gli sceneggiatori di cinema e gli scrittori di software. Certo che e sono singole persone che ogni tanto fanno queste cose, ma anche dentro questa individualità è un processo sociale che emerge, l'origine e la cosa principale è un processo sociale. In una situazione di questo tipo la nostra identità non può più essere quella generica e un po' supponente di che cosa siamo noi, esseri pensanti, perché è insieme troppo e troppo poco. È troppo, perché noi siamo qualcosa che va al di là del nostro pensiero e il nostro pensiero è il risultato di una serie di processi molto più ricchi di quanto poi l'autocoscienza non generi. Quindi è troppo. Ma è troppo poco. Ma è troppo, perché con questa cosa noi tendiamo ad identificare il pensiero come un processo strettamente individuale. Invece tutto l'insieme di queste tematiche ci suggeriscono idee, ci fanno capire che lungi dall'essere la società, quello che diceva Margaret Thatcher, non esiste nulla di simile alla società. Noi potremmo andare a saltare e dire che non esiste nulla di simile all'individuo. È l'individuo che è un'attrazione. È l'individuo che è un'attrazione eccessivamente semplificatrice, e foriero e causa e produzione delle cose più turbide che possono pensare e agire gli esseri umani. È nella riduzione dell'essere umano a individualità. Massimo, individuo non significa la minima componente? No. Cioè, vabbè, ok, ora magari noi individuo pensiamo a io come individuo. Individuo, ciò che non si può dividere. Individuo, esatto, ciò che non si può dividere. La minima, è ovvio che c'è un qualche cosa chiamato corpo, che il mio corpo è diverso da un'altra carta. No, appunto, diciamo, stavo per dire che l'individuo non presuppone il fatto di c'è la diversità. Ma presuppone il fatto che tu non puoi identificare, cioè, accidentaccio. Su questa base fenomenica e biologica che è un corpo, indubitabilmente separato dagli altri corpi, questo è ovvio, che è singolo e che si muove, però questo corpo in quanto tale genera dei rapporti, ed è questo che fa, quando dice l'identità, cosa sei tu? Tu non, cioè sì, si può dire io sono il mio corpo, ma perché? Perché il mio corpo sono le relazioni fisiche, mentali, immaginarie, fantasticherie, le seghe mentali che io mi faccio nei rapporti, compreso questo, cioè, anche quello qui. No, probabilmente la crisi di identità, nasce appunto dal fatto dal concepire individuo come un essere a sé stante e non pensandolo come semplicemente come un Ma l'origine è chiara, l'origine sta nella terra del quinto secolo, maledetti, disgraziati, loro. È colpa loro e di San Paolo e di vabbè, sono le sfide, sono queste, ragazzi, la nostra cultura deriva da questa cosa qua. È lì che allora la nozione di individuo come quella che si è sviluppata nell'Occidente non esiste. I giapponesi non ce l'hanno, i chinesi non ce l'hanno quella nozione. Nella loro cultura l'individuo non è la stessa cosa che è diventata per noi nel corso. È una eccezione l'idea borghese. Occidentale di allora la cosa interessante è che però dall'interno di questa cazzo di sistema e di tradizione di pensiero, esce qualche cosa che in realtà mette in discussione, no? Questa esasperazione individualistica, insomma, no? Che però è, come dire, culturalmente, per quanto deficiente, stupido e disgraziato possa essere Roberto Bossi e in generale il tipo sociale in Italia dell'uomo berlusconensis, e però, che è quello che ha, no, la colpa è sua, non tanto di Berlusconi in quanto tale, no, è di come sta del personaggio, è di quello che... Allora, diciamo, questa iperindividualizzazione è il risultato, purtroppo, cioè, per sfiga, tutto quello che ha combinato la mia generazione, per il momento sembra non aver prodotto altro che questa, cioè, che è una, come avrebbe detto Hegel, è una eterogenesi dei fini, cioè io penso a una cosa e ne capita un'altra, perché ho anche detto anche astuzia della ragione, in questo caso astuzia di una ragione un po' stronza, ma è. Però, diciamo, da un punto di vista filosofico, l'elemento stare filosofico sta in questo, cioè sta in questa eccessiva, dico, poi certo, diciamo, le traduzioni politiche sono particolarmente, come dire, sono deprimenti e anzi, sono vomitevoli, cioè, come dire, fastidiose. Però, diciamo, non è tutta colpa di questi qua, è che dietro c'è stato un processo che ha portato l'Occidente attraverso una lunga catena di, diciamo, di secoli, ripeto, partendo, perché la prima volta che si afferma l'idea dell'individuo separato come soggetto di un processo, come dire, sociale, comunicativo, eccetera, è la Grecia classica, la Grecia dal VI secolo in poi, insomma, la cultura greca sviluppata prevalentemente in Atene, ma insomma in tutto quel periodo. Quella cultura lì poi si è trasferita nell'ellenismo, la cultura ellenistica si è incontrata con queste bizzarre credenze di queste cazzo di tribù, di adoratori di un solo Dio nella attuale Palestina, giudaismo e neofattorismo si sono incontrati non tanto in Cristo, che non era uno che non aveva mica letto San Platone, ma San Paolo sì, ma forse alcuni dei loro discepoli sì erano vero. Questo incontro tra giudaismo e platonismo e neoplatonismo ha dato luogo a noi. Siamo noi. Plotino è romano. È considerato romano, certo, Plotino era solo Plotino per Platone, certo, non è che c'è detto, Plotino ha dato una ragione, Plotino che ha visto la Plotino, Platone, che c'ha un nome che funziona benissimo per quello che era un mio Platone. Allora, questa è la cosa, questo ha dato, è questo che ha. Ora noi, diciamo, in questo crepuscolo, in questo tramonto, speriamo, di questa cultura occidentale, no, è un tramonto perché è durato fin troppo a lungo e perché ha creato troppi guai e troppi guasti. E però è dall'interno, quello che sto cercando di farvi vedere è sempre come dall'interno della cultura occidentale matura questa autocoscienza, questo modo di... E quindi questa è una delle cose che però noi dobbiamo abbandonare, cioè l'idea che l'individuo sia il centro ordinario. L'individuo è una astrazione. È utile concepire l'individuo come un po' di unità, cioè ci posiamo come cazzi nostri, questo è vero, se non ci fosse dovremmo stare tutto il giorno a fare la cultura che fanno le culture primitive, le culture dei popoli orari. Beh, i popoli orari non... nessuno sta mai da solo. Ma non per esempio nessuno sta mai da solo, ma anche noi, certo. Preschi, cioè. No, è bello, noi pensiamo troppo da soli, adesso io alla mia età non mi sono abituato qua che sono liberato dall'idea di dover vivere con una donna, però se siete tra poco io tranquillo da solo, non è ok, certo vivo, scusate, però diciamo è solo come modo, capito, come una roba, ma l'idea fondamentale è quella di capire che la nostra stessa identità non è la come socialità non è un lusso che noi ci prendiamo, è la nostra essenza, l'unica essenza che abbiamo è quella. La realtà è potenzialità e socialità. Basta, non è andato, perché questa è l'essenza. Io ho abbiurato ai miei cosi. Va bene ragazzi, basta con la cibernetica, vi ho tormentato la sufficienza. Dalla prossima settimana, per quello che no, se volete la prossima settimana accetto comunque domande su queste cose. Non c'è, come non c'è? Vabbè, quella dopo. La prossima lezione. Lo so, perché è il 2 giugno che è festa. C'est la fête de la République.